con l'attore Daniel Terranegra per presentare lo spettacolo Un chiodo nel mio stivale a Roma, Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 15 marzo 2019. Daniel, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Lo presenti? Andremo in scena con uno studio sui poeti futuristi russi, più precisamente su Majakovskij, Bloch, Jesenin e Pasternak. Questo è uno studio che io sto conducendo da diversi anni e che parte dalla mia tesi di laurea, che fu una tesi su uno spettacolo fatto da Carmelo Bene, appunto proprio sul futurismo. E niente, mi porto appresso questo fardello, come si può dire, ma è una volontà mia e un piacere affrontarli, anche perché in un momento come questo, dove comunque la cultura ha bisogno un po' di una spinta politica, secondo me, è importante comunque fare la scelta di tirare fuori anche questi autori, perché a prescindere dal periodo storico e dalle situazioni, quelle parole sono universali e penso che possano essere comunque illuminanti anche per tutte le persone che oggi non ne possono fruire, proprio perché la situazione teatrale è un po' ormai inchiodata sul teatro da botteghino, che non fa male, però soltanto quello è un po' poco, ecco. Daniel, dicevi di una tesi di laurea diversi anni fa, come mai tutto questo tempo per far nascere l'idea di metterla in scena? Perché guarda, io dopo essermi laureato, io ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica La Cometa e quindi mentre studiavo io avevo sempre in mente questo progetto. Questa non è la prima realizzazione, è la terza volta che io faccio questo studio e ogni volta lo cambio e questa volta ho inserito i testi di Livia Filippi che mi aiuta a raccordare le poesie e attraverso le sue parole creo proprio un filo rosso sulla rivoluzione, precedentemente alla rivoluzione, durante la rivoluzione e dopo la rivoluzione. E questa volta ho inserito anche un pianista, bravissimo, che si chiama Fabio D'Onofrio, che farà le musiche in scena di tutto lo spettacolo. Quindi ogni volta io cerco di migliorare o comunque di provare qualcosa di nuovo, ecco perché lo intendo come studio e non come messa in scena finale. Rispetto alla messa in scena, come hai pensato appunto la resa della poesia in scena? Allora, guarda, queste poesie non ti lasciano scampo, nel senso che o veramente ci arrivi con la pancia o altrimenti è un casino, perché hanno bisogno di una grande forza interpretativa e perché sono talmente radicate con la verità che è difficile mettere in scena senza una spinta forte. Quindi ho pensato proprio al senso e a riuscire ad essere un mezzo, un tramite tra quelle poesie e le persone che verranno a vedermi. Mi sono avvalso appunto della musica e della ritmica, che è uno studio che ho fatto proprio sulla ritmica dei poeti futuristi, perché c'è un ritmo ben chiaro in ognuno dei quattro poeti. Jesenin veniva dalla campagna, Bloch era un poeta aristocratico, Majakovskij era un poeta consumato cittadino, quindi ognuno racconta i ritmi della propria realtà e si sente nei versi. Se uno poi fa una lettura più approfondita si rende conto che le liriche jeseniane, appartenendo alla campagna, sono molto auliche, sono molto lunghe, invece Majakovskij è molto ritmico, molto incalzante, e Bloch, essendo un simbolista, rimane anche molto etereo. L'unico che guarda tutti e tre da lontano è Pasternak, perché nella realtà è l'unico che è sopravvissuto a quel periodo, l'unico che non si è suicidato, che infatti ha raccontato questo periodo in maniera meravigliosa, dopo in una poesia che ho inserito alla fine dello spettacolo che si chiama Le Onde, perché proprio lui davanti alle onde da vecchio ricorda tutto questo periodo qui, che fu un periodo di 15 anni che insomma fu un bel periodo, ecco. Cosa hai apprezzato particolarmente di ognuno di questi quattro autori? La forza al di là della vita, no? Al di là della vita che è meravigliosa perché hanno avuto una vita molto romantica, secondo me una vita che sognerebbero un po' tutti, anche se è durata poco, però è intensa, pensa che sono vissuti in un periodo nel quale la poesia aveva un valore politico, etico e sociale che oggi può avere, nemmeno la politica lo ha. cioè gli uomini erano radicati a delle idee fortemente, che è l'unica rivoluzione della storia, quella russa, che ha cambiato radicalmente una società dall'interno, più di quella francese, perché in Russia è stata eliminata la visione di Cristo, sono state eliminate tutte le lingue, è come se potessi immaginare Roma, che domani scoppia una rivoluzione e fra un mese non ci sono più icone cristiane, cioè c'è la perdita dell'identità di un popolo. Quindi è l'unica volta che succede questo nell'epoca moderna. E quindi loro, secondo me, ecco, c'è un libro bellissimo, si chiama Una generazione che ha dissipato i suoi poeti, di Jean Cotte, che racconta proprio tutto questo periodo, ed è bello, è romantico, insomma. Sono stato un po' matto, mi sono messo a fare questa cosa qui, però ecco, sta nelle mie vene, io mi piace vederla così e dare sempre una possibilità. L'ho fatto soprattutto per arrivare ai giovani, perché negli altri due studi ci sono stati ragazzi di scuole di teatro che hanno visto quello che ho fatto e sono usciti comunque esaltati. Quindi l'importante per me è questo, non è il giudizio su me stesso, sull'attore, io lo so bene chi sono, con i miei difetti e i miei pregi, però la mia volontà è quella di trasmettere quel pensiero lì, anche soltanto per un'ora, sbarazzarsi un po' del pensiero comune, dei bisogni materiali, per toccare un po' quello che è un animo poetico che può essere importante in un periodo così. Daniel, questo spettacolo si inserisce nel progetto Contrabbando del nuovo Cinema Palazzo. Sì, si inserisce nel progetto Contrabbando e ti ripeto, con questo gruppo che ho creato con Livia Filippi, che ha scritto tutti i testi, e Fabio D'Onofrio con le musiche, abbiamo creato questo progetto soprattutto grazie a Livia che ha spinto, insomma, in maniera molto più pratica per creare tutto il progetto, e voglio fare un ringraziamento particolare a lei perché ho fatto questo spettacolo questa volta e anche grazie a lei. E siamo riusciti a essere scelti dal Contrabbando, stiamo provando, è una situazione molto, molto tranquilla e sono molto gentili e soprattutto è importante mantenere questi spazi vivi perché è qui che forse poi possiamo ritrovare quella semplicità e quella tranquillità di fare le nostre cose senza venire giudicati da gente che comunque tante volte addetti ai lavori che non fanno nulla e magari capiscono. Ecco, mi piace questa situazione qui. Mi piace proprio in un quartiere come quello di San Lorenzo, mi piace sentirmi anche parte di una realtà molto semplice, però che ha bisogno di restare viva, perché in questo periodo in cui stanno chiudendo, tra virgolette, tutti questi punti socialmente utili, i centri sociali, stanno mettendo tutti sotto una brutta luce, il bello e il brutto c'è in ogni realtà, però il bisogno di queste realtà è importante perché non bisogna dimenticare che c'è un intero quartiere che può fare riferimento anche a quel cinema, a livello culturale, e non possiamo andare soltanto al Teatro Eliseo, con rispetto del Teatro Eliseo, massimo rispetto, però abbiamo bisogno anche di queste realtà, soprattutto per la gente comune, per le persone che non ambiscono soltanto alla carriera, ma vogliono dare qualcosa agli altri e appunto proprio a livello sociale. Loro sono molto attivi e sono molto presenti anche con noi. Daniel, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sullo spettacolo? Guarda, sì, abbiamo fatto un bando, abbiamo fatto, scusa, un post che gira su Facebook, che è un chiodo nel mio stivale, e poi su internet lo potete trovare sulla pagina della compagnia The Gepards, che è la compagnia che poi rappresenta questo spettacolo oggi, sulla pagina del Cinema Palazzo, anche se avete ascoltato questa diretta. Insomma, veniteci a trovare, ecco, siamo il 15, venerdì alle ore 21 al Cinema Palazzo. Andremo in scena con questo spettacolo, vi aspettiamo, siate con noi perché è importante, è per la poesia. Allora, i riferimenti li hai dati tutti, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Sì, crepi il lupo e alla prossima. Grazie mille, grazie della vostra attenzione, speriamo bene. Ciao Daniel. Arrivederci.